Buongiorno a tutti da Antonio Pavolini e benvenuti al 15° numero di Conversational, la rubrica di Radio Popolare Roma dedicata alla rivoluzione dei social media. Si avvicina minaccioso il Festival di Sanremo e come ogni anno la kermesse della canzone bloccherà davanti ai teleschermi 10 milioni di italiani che avranno così qualcosa di cui parlare per almeno un mese a casa, sul posto di lavoro e con amici veri e le conoscenze fuggevoli magari per rompere l'imbarazzo del primo caffè del mattino. Forse ci sarà sempre bisogno di una cultura di massa in grado di aggregare le moltitudini, ma le nuove piattaforme web in grado di restituire all'utente finale la scelta di cosa leggere, vedere ed ascoltare prefigurano una cultura parallela che coinvolge per prime le nuove generazioni. È questa la cultura digitale in grado di differenziare i contenuti in base ai nostri interessi o a riaggregarci intorno a dei nuovi tormentoni virali, oppure è ancora un fenomeno liquido, indefinibile o comunque transitorio? Ne parliamo con i nostri esperti tra pochissimo. Extra, extra, read all about it. AOL officially bought the Huffington Post for a whopping $315 million. 300 of those million is going to be paid in cash. MSNBC says AOL is struggling, so it's probably about time. Allora, abbiamo ascoltato una notizia importante che è già stata commentata più volte questa settimana, l'acquisizione da parte di America Online, il colosso ormai dei media, dei nuovi media americani, di Huffington Post, che potrebbe essere definito uno di questi contenuti nati quantomeno indipendenti e lontano dalle, diciamo così, catene tradizionali. È lo spunto con cui cominciare la trasmissione di oggi, dedicata appunto a come cambia il mondo dei media con gli independent content provider. Lo facciamo intanto in studio con Stefano Mizzella. Ciao Stefano. Ciao Antonio. Stefano Mizzella, che lavora per Open Knowledge a Milano, ma che noi stavolta convochiamo più per le sue, diciamo, indiscusse capacità professionali, per il fatto di essere una persona che fin dall'inizio segue l'evoluzione di quelle che chiamiamo le culture digitali. Per qualche tempo anche Stefano ha collaborato con me a una precedente trasmissione radiofonica in cui parlavamo, per esempio, di come erano cresciute le forme di new media art. Abbiamo parlato di videogame, di retro gaming, ricordi quei tempi storici? Assolutamente, sembra passato un secolo, ma è così. In due anni sono successe un bel po' di cose. Dunque, la prima cosa che mi viene da dire sul caso Huffington Post è: si inverte un po' il meccanismo, cioè il nuovo medium indipendente diventa così interessante da essere comprato e pagato per la cifra di circa 312-315 milioni di dollari, che non sono bruscolini, da parte di qualcuno che ha fatto all'inizio per tanto tempo portali, no? AOL, per un po' addirittura si disse che tentava di fare una internet per conto suo, no? Poi ci fu la fusione con Time Warner, insomma accaddero molte cose. E la prima cosa da dire è: forse oggi ho un argomento per chi mi accusa continuamente, no? E dice: sì, va bene, ma tutti questi contenuti nuovi indipendenti della coda lunga sono delle noccioline in termini di ricavi, sono peanuts. Però insomma, se qualcuno per comprarsi queste noccioline paga 315 milioni di euro, o sono molto prelibate o no. In un momento in cui America Online era in crisi, quindi appunto il fatto di rivolgersi ad un player indipendente per avere dei contenuti di un certo livello la dice lunga su un trend. Ecco, ma tu dici giustamente, America Online era in crisi. Spendere questa cifra in un momento di crisi può voler dire tante cose. Abbiamo sentito di un'altra mossa disperata questa settimana, è stata descritta, no? Quella della matrimonio, diciamo, tra Microsoft e Nokia. Adesso Nokia avrà il sistema operativo Windows Mobile, però già non mi sembra che la comunità finanziaria abbia reagito con grandissimo entusiasmo. Ma come spieghi questi balzi in avanti della disperazione? Non so come altro chiamarli. Nemmeno la comunità online, oltre a quella finanziaria, ha reagito bene al matrimonio tra Nokia e Microsoft. Sembra proprio che ci sia la fine, no, dell'era dorata, dell'età dell'oro di Nokia. E di fronte al patto col diavolo, no? con il nemico Microsoft. Io la vedo come appunto un processo che naturalmente porta, diciamo, le grandi testate internazionali a dover cambiare qualcosa necessariamente, a rivolgersi a chi sa fare dei contenuti più in linea con dei trend che sono riscontrabili all'interno del web. Ma secondo te qualcosa del genere potrebbe succedere da noi? Perché un po' la cosa che emerge in questi ultimi mesi, quando si prova a calare questi grandi avvenimenti che succedono all'estero nel nostro contesto, è che noi forse non siamo tanto adatti, non perché siamo diversi oggi, ma perché è diverso il vecchio contesto su cui questi fenomeni si applicano. Assolutamente, è vero, un discorso di contesto, appunto, perché innovare in Italia è diverso che innovare in Silicon Valley, questo ce lo siamo sempre detti. In Italia ci sono dei tentativi di imitare realtà come Huffington Post, lo stesso Post, almeno nelle intenzioni in Italia cerca di andare su quella rotta. Il problema che vedo io è che in Italia molto spesso chi produce contenuti indipendenti soffre di alcuni stereotipi, il fatto di pensare che un contenuto indipendente sia soltanto un contenuto creativo, che non merita un investimento di rilievo alle spalle, che sia un contenuto appunto che nasce quasi spontaneamente senza un investimento anche strategico da parte di chi lo produce. Questo secondo me tende a frenare quello che è il reale valore del tipo di informazione, ma anche di contenuto di intrattenimento che poi viene prodotto nel nostro paese. Va bene, allora ascoltiamo un inserto intanto per spezzare la chiacchierata e tra poco coinvolgiamo un ospite. North Korea, what's up with it? As you can see, people are wondering lately. On November 23rd, North Korea struck South Korea, bombarding Yongpyong Island. The North said it was retaliation for South Korea training exercises in the region, and the people of both countries are feeling extra stressed. How did this happen? Perhaps it all started billions of years ago and has been predetermined ever since. And perhaps not. It's worth noting, however, World War II led to the United States occupying the south of Korea and the Soviet Union occupying the north. Allora, la voce che abbiamo sentito è quella di Meme Molly, una delle conduttrici, direi la conduttrice principale di Rocket Boom, che è uno dei formati di independent content providing di maggiore successo negli Stati Uniti. Intanto noi salutiamo al telefono, se ci sente, Andrea Materia. Ciao Andrea. Ciao, vi sento benissimo. Ciao da Torino. Benissimo. Dunque, Andrea, che è un autore di questa che chiamiamo ormai la nuova televisione, ti occupi di social TV, corretto? Beh, assolutamente sì, tanto che io sono qui a Torino proprio perché domani andrà in diretta, anzi sia oggi che domani, ci saranno le primissime puntate di Social King, che è il primo quiz interattivo e dunque il primo format di social television prodotto e realizzato dalla RAI, dalla struttura dei ragazzi, va in onda su RAI 2. Benissimo, dunque... Intanto, ecco, vorrei un tuo commento su questi format americani. Abbiamo citato Rocket Boom, che fa centinaia di migliaia di download per ogni numero e che ormai viene visto anche sui televisori di casa, normalmente dagli americani, come se fosse uno show delle grandi corporation. Secondo te quando è che vedremo qualcosa del genere anche in Italia? Dunque, è assolutamente interessante l'ipotesi di avere dei player italiani indipendenti che riescono a ritagliarsi uno spazio competitivo tale da, faccio un esempio non di Rocket Boom ma di Blip, che comunque è una realtà analoga e assimilabile e che non molto tempo fa ha vantato di avere il 10% dell'audience complessiva dei tre maggiori canali in chiaro americani. Che vuol dire che tutte messe insieme, le web series e i web show di Blip.tv riescono a fare il 10% di tutti i grandi telefilm e i grandi reality dei canali, dei broadcaster generalisti americani. È un risultato chiaramente eccezionale, naturalmente va messo poi in prospettiva, perché è chiaro, un qualcosa è avere un catalogo completamente on demand e dunque con delle visualizzazioni accumulabili nel tempo, altra cosa invece è fare palinsesto lineare, dunque avere degli spettatori che esistono in quell'istante e poi spariscono e dunque catturarli all'istante. Detto questo, avere delle realtà italiane che facciano la stessa identica parabola di Blip, la stessa identica parabola di Rocketboom, ovvero vadano a competere sugli spettatori, quelli veri, grandi numeri, con Rai, Mediaset, la 7, Telecom Italia e Sky, credo sia forse un tantinello prematuro. Non la vedo come una prospettiva nell'immediato, però è un qualcosa a cui si arriverà sicuramente, inevitabilmente. Ma secondo te questi programmi televisivi, chiamiamoli così, che poi si caratterizzano per lo short form, cioè durano tutti abbastanza poco, hanno un ritmo indiavolato, se penso a Rocket Boom, che è quasi, insomma, è molto difficile da capire per un non native English speaker e forse addirittura per un non newyorkese, perché quasi sembra creare un nuovo New York state of mind al quale gli altri devono adeguarsi, no? Ma secondo te contribuisce a cambiare le culture giovanili in un modo sotterraneo che non viene intercettato in tempo dalla televisione? Cioè, come cambia la cultura dei giovani con questi format che non devono obbedire ai vincoli e alle regole della televisione tradizionale? Allora, guarda, io purtroppo ti ho un pelino perso perché c'è un passaggio continuo qui di mezzi su rotaia. Improvvisa! Perché improvviso, no, comunque ho colto le parole chiave. Le parole chiave sono anzitutto giovani, allora un target demografico che è quello delle realtà che producono audiovisivo per i mezzi della convergenza, e dunque uno spettro amplissimo che va dal computer ai tablet agli smartphone fino naturalmente a tutte le nuove televisioni interconnesse. Bene, questo target demografico è chiaramente e in maniera ormai scientificamente provata il main target dei vari Rocket Boom, dei vari Blip, ma al tempo stesso anche di Apple, di Google, che possiede YouTube, quindi sono loro i consumatori a cui si rivolgono questi show, chiamiamoli indipendenti, in realtà sempre più vicini come valori produttivi a quelli delle major. Siamo sicuri che televisione e web siano amici? Nel senso che, parlando di social TV, a me sembra molto funzionare un utilizzo del web come diciamo ascolto collettivo di quello che avviene in televisione, ma mi sembra funzionare un po' meno quando si fa il passaggio contrario, ovvero portare i social network in TV. Ho visto per esempio il trailer di Social King, no? che ci dava prima Antonio, in cui si cerca appunto di portare il web, i social network, come fenomeno da discutere in TV. Ecco, non c'è il rischio che appunto in questo modo si perda un po' il senso del web, di andare contro anche le logiche della TV, quindi andare contro la logica della diretta, la logica del palinsesto, contro un canale unidirezionale, scusa, nel caso della televisione e così via? Guarda, la tua domanda non è cattiva, in realtà è assolutamente pertinente. Partiamo dal presupposto che siamo in una fase sperimentale, l'intera social TV è un concetto nuovo. Da una parte abbiamo l'amministratore delegato di Endemol che dice la social TV sarà enorme, e lo dicono più o meno tutti, per intendere dunque un business che potrebbe di fatto spazzare via tutti gli altri business televisivi. Dall'altra però è un qualcosa talmente embrionale che dobbiamo procedere per step, verificare cosa funzionerà, cosa non funzionerà. Io credo che ci sia un'evidente compatibilità, perché comunque entrambi fanno spettacolo, entrambi fanno entertainment, entrambi fanno informazione culturale, società, costume, come lo vuoi definire, tra gli interpreti dell'audiovisivo su web e gli interpreti dell'audiovisivo in TV. Riuscire a farli incontrare naturalmente comporta dei compromessi in questa fase, perché non abbiamo degli strumenti completamente interattivi. Allora ti faccio un esempio con Social King. Social King è una trasmissione in cui c'è un voto interattivo, in cui i protagonisti sono stelle del web, stelle di YouTube. Al tempo stesso questo voto interattivo è filtrato e mediato da almeno due strumenti, il PC o il tuo iPhone con cui voti e il televisore con cui guardi invece la sfida. Dunque, prima abbiamo sentito Rocket Boom che mi dà lo spunto per chiederti una cosa. Secondo te c'è spazio veramente per tanti nuovi soggetti oppure per uno solo? Te lo dico perché Rocket Boom, come del resto altri grandi show di successo, penso a Boing Boing Video, tendono a fare, diciamo così, da scopritori di talenti, cioè hanno il loro format, ma ogni tanto rinunciano al loro format e ritrasmettono, per esempio, un video che secondo loro merita 200.000-300.000 download e che da solo semplicemente non ce la farebbe a conquistare dall'oggi al domani un audience. In sostanza, in pochi cercano di mettere il loro brand a disposizione di qualcosa di cool, e questo non potrebbe essere il sintomo che in qualche modo si sta creando una nuova elite che si sostituirà alla precedente della TV mainstream, senza realizzare quel famoso fenomeno della coda lunga, della scelta infinita di cui si è favoleggiato per anni? Dunque, io sono convinto in effetti che si andrà verso un processo di consolidamento, è inevitabile, e dunque non avremo la frammentazione attuale. Agli alti livelli non può proseguire. Pensa banalmente al processo, alla trattativa in corso tra Google e Next New Networks, che è il loro fornitore di contenuti professionale, diciamo, sì. Numero uno, sì. E trattativa in base alla quale Google andrebbe ad acquisire Next New Networks e quindi a inglobare dentro un editore di contenuti. Sì, è anche una scelta obbligata, perché Google non è riuscita a fare gli accordi con i grandi broadcaster, esatto, e con le major. Però vedi che è una rivoluzione copernicana. Google, che era un distributore, in termini telefonici si direbbe un carrier, dunque tendenzialmente neutro rispetto ai servizi e ai dati che passano sulla piattaforma, improvvisamente non è più neutro, va ad acquistare contenuti, acquista licenze di altri, tipo le licenze sportive, trasmette un po' di concerti, fa un po' di trasmissioni in live streaming, ad esempio di Ignition, di Revision, sì. 3 proprio di recente. Però soprattutto su quello che è l'intrattenimento puro, quindi quello che più interessa poi ai pubblicitari nel momento in cui non puoi avere i film di Hollywood, vedi che compiono la scelta, passano il Rubicone e vanno ad acquistare e a diventare editori loro stessi. Questo è un evidente passaggio verso un futuro molto veloce di consolidamento, per cui grossi colossi andranno a fare sinergie verticali, player importanti ma che non hanno le risorse per poter veramente poi competere a lungo termine andranno a essere inglobati, a portare dentro il loro know-how. Avviene a tutti i livelli. America Online compra The Huffington Post, cioè il blog che ha sfidato e battuto i grandi quotidiani americani, dal New York Times al Wall Street Journal. Lo stesso avverrà, per forza di cose inevitabile. Potrebbe essere un bene o un male, ma così è, secondo me, il corso della storia. Lo stesso avverrà con i prodotti audiovisivi per il web. Va bene, allora Andrea, abbiamo fatto un deep dive in quello che potrebbe essere il mondo dei modelli di business della nuova televisione. Ti ringraziamo tanto per il tuo intervento, in bocca al lupo naturalmente per il tuo progetto. Grazie a voi. E speriamo di averti, allora. Speriamo di averti ancora in trasmissione alla prima occasione utile. Ciao Andrea. Ciao. Yeah. Yes. Yes. Hello. Hello. Hello over there. Up there. I love you. I do. We're dating. Wow. Full house. Hi, everyone. I'm Josh Topolsky, editor-in-chief of Engadget, and welcome to the Engadget show. We're really happy to have you here. This is a beautiful-looking crowd, and I'm very happy that you could be here on our final show of 2010. We made it through the year. Allora, la voce che abbiamo sentito è quella di Joshua Topolsky, presentatore, ma in realtà è anche il proprietario di tutto il mondo di Engadget. È bella questa cosa di questi personaggi che iniziano come blogger, poi dall'oggi al domani diventano presentatori televisivi. Dovremmo avere in linea Davide Bartolucci di Shadow TV. Ciao Davide. Sì. Ciao, ciao Antonio. Allora, tu sei CEO and founder di questa nuova realtà di Nuova Televisione, devo dire nuova ogni 20 secondi in questa trasmissione, e anche tu sei uno di quei casi che lasciano qualche speranza agli italiani che intendono fare qualcosa di interessante nella nuova televisione, anche perché ci sono di mezzo questi incubatori che vi danno una mano, come nel tuo caso H-Farm. Raccontami che cos'è Shadow TV e che cosa fa H-Farm. Allora, bene, intanto parto da H-Farm, che è in qualche modo la nostra casa. H-Farm è un luogo unico in Italia e non solo, è un incubatore privato immerso in 1100 ettari circa di campagna veneta tra Treviso e Venezia, ed è un sogno che Riccardo Donadon, reduce dall'esperienza precedente di E3, per chi la conosce, quella dei letti a castello, esattamente, ha voluto portare in un luogo abbastanza atipico, nel senso è un paesaggio quasi lunare per certi versi, in cui ci sono una quarantina di rustici che mano a mano l'idea è quella di ristrutturare, facendoci insediare all'interno aziende che poi lavori in maniera verticale su aziende innovative che abbiano come obiettivo appunto rivoluzionare in qualche modo ambiti diversi della società, quindi un settore merceologico, un processo industriale, un modo di comunicare. E il fatto di essere insediati in quest'area è proprio perché dopo il periodo della economia virtuale al cavallo degli anni, insomma, 2000, la bolla speculativa. Esattamente, siamo arrivati a una logica in cui il concetto dell'uomo al centro, con la H-Farm sta per Human Farm, e usare internet e le tecnologie per migliorare in qualche modo la vita. Noi all'interno di questo contesto siamo l'azienda Shadow, che è nata per fare questo lavoro ambiziosamente nel contesto della televisione, quindi cogliere questa grande opportunità che internet fornisce anche all'interno della televisione. Quindi l'obiettivo è quello di essere protagonisti, insomma, nella trasformazione dell'intrattenimento, dello show business, ma anche dell'advertising, per esempio. Quindi noi nel 2008 siamo nati con l'idea di fare una specie di nuova Endemol, poi nel tempo, anche proprio confrontandoci con le dinamiche dei modelli di business, anche delle esperienze stesse che noi abbiamo lanciato, abbiamo anche cambiato un pochino di punti di vista. Che cosa non ha funzionato in una prima battuta e che cosa sta funzionando adesso? Ma guarda, l'idea ambiziosa di fare il produttore di properties all'interno della rete, dell'ambito cross-mediale, è ambiziosa perché in questo momento ancora, a nostro avviso, non esistono dei modelli di business e di monetizzazione particolarmente performanti, no? Questo lo sappiamo un po' tutti noi che lavoriamo in questo ambito, e quindi è molto importante anche su internet utilizzare dinamiche che sono conosciute anche nel mondo reale, cioè il metro della popolarità è una delle cose da costruire sempre con talento, sempre con tempi che non sono poi così immediati. Prima di avere un seguito ci sono sì fenomeni in rete che hanno avuto dei risultati immediati, virali, però molto spesso quelli che devono essere costruiti a tavolino hanno dei percorsi un pochino più lunghi, sono molto simili al mondo tradizionale. Certo è che adattare questi contenuti ai nuovi mezzi significa fare un'operazione anche culturale all'interno dei formati. Quindi adesso noi siamo orientati in due ambiti. Il primo è quello, diciamo, del branded entertainment, quindi lavoriamo anche perché diciamo tradizionalmente siamo molto legati anche a grandi aziende italiane, anche estere come gruppo, diciamo, e lavoriamo con molti marchi per creare estensioni di campagne pubblicitarie che abbiano all'interno il linguaggio televisivo, seppur in maniera, diciamo, ridotta, per cui fate corporate generated content oppure corporate storytelling, queste esattamente, cose. Esattamente, si tratta per esempio di serie magari di 12-15 puntate con episodi di 3-5 minuti che sono serviti in certi casi per lanciare marchi di biscotti, altre volte per grandi multinazionali dell'arredamento, insomma progetti che hanno visto l'utilizzo di linguaggio televisivo, ma in qualche modo molto molto ridotto. A volte mi piace dire che sono progetti al sapore di TV, ma che non sono proprio vera e propria televisione. Sì, no, scusa, arriva al secondo punto, poi ti devo chiedere una cosa. Sì, no, il secondo punto invece è quello più ambizioso ed è quello che poi ci vede voler arrivare al nostro obiettivo principale, che è quello invece di disegnare nuovi formati che abbiano invece l'ambizione di trovare asilo sia negli ambiti crossmediali, ma anche di essere, diciamo, o estensione o property proprio innovative per la televisione mainstream. Ecco, io vedo quindi due strade convergenti: da un lato il brand entertainment, dall'altro la creazione di properties per la televisione tradizionale, quindi per rimediare. Quello che non vedo, nel senso che non è che debba per forza accadere, perché non è detto che negli Stati Uniti siano più bravi di noi, però se vediamo il caso di Engadget, se vediamo il caso di Boing Boing Video, o quello forse unico di Rocket Boom, insomma lì loro partono intanto con un blog, creano un audience, un grande seguito, e poi si diversificano e vanno nel video e creano degli show, come ha fatto Topolsky, che ha praticamente copiato e industrializzato il format delle presentazioni di prodotti che Steve Jobs al Moscone Center aveva inaugurato per fini branded suoi, no? Poi lui ha detto, vabbè, perché non lo deve fare anche la sfigata Mitsubishi o la sfigata Nintendo che non ha Steve Jobs? Io gli metto a disposizione più o meno lo stesso format e con la mia ironia, la mia capacità di stare sul palco, eccetera, in qualche modo me la cavo, e anche loro fanno centinaia di migliaia di download. Invece in Italia siamo sempre un po' o al servizio del brand, diciamo, potente che ha soldi da investire in nuova televisione, oppure siamo al servizio del broadcaster. È questo che mi stai dicendo? Io sono assolutamente d'accordo con questa valutazione, nel senso che è vero, e secondo me è vero anche per l'Italia, che sia possibile costruire fenomeni di un certo tipo a partire, se vogliamo, da modelli editoriali più semplici, come possono essere i blog, che quindi hanno dei costi ridotti, però hanno in qualche modo delle parabole che obbligano ad investire in percorsi che magari hanno bisogno di 2-3 anni per prima di arrivare al percorso un po' più maturo, in cui allora si produce anche lo show e lo show ha la sua visibilità, si paga dei costi. Quindi, essendo invece noi dall'ottica dell'azienda, essendo poi, ritornando anche al tema dell'incubatore H-Farm, non finanziati con la stessa dinamica che accade spesso negli Stati Uniti, in cui chi riceve un finanziamento fa un primo raising di capitale, ha dei soldi in cassa e decide come usarli fino a quando non gli finiscono o non riesce ad avere un secondo finanziamento. Noi siamo delle società che cercano di essere subito abbastanza autosostenute sul mercato, e questo non ci permette, ad esempio, di fare dei percorsi con questo tipo di percorso. Quello che abbiamo fatto noi per essere, diciamo, per andare in quella direzione, è stato invece lanciare l'anno scorso un contest che si chiamava Circus, ed era un pitch globale perché ci mandassero delle idee di contenuti innovativi. È stato un progetto molto interessante, ci sono arrivate quasi 300 idee molto, molto innovative, però anche lì, quando abbiamo provato a proporlo ad aziende o provare ad autoprodurle, ci siamo accorti di quanto invece fosse importante avere associato ad ognuna di esse dei concetti di popolarità esistenti, cioè avere o la star all'interno del progetto, avere un qualcosa che gli facesse da traino. In Italia la mia sensazione è che ci sia molto la necessità di questo, ci sia un pochino più di diffidenza o minore capacità, diciamo, di sfruttare, di dare chance a contenuti che non hanno questo tipo di caratteristiche. Beh, diciamo che il branded entertainment una volta poteva essere riservato a chi aveva accesso alla televisione tradizionale. Adesso, potendo fare televisione con costi più bassi e soprattutto distribuendo con costi più bassi, ci provano anche i piccoli a farsi notare, come succede con Cool Hunting Video, che è un caso interessante di corporate storytelling seriale negli Stati Uniti, nel senso che una volta le avremmo chiamate marchette, oggi in realtà non è così, sono delle belle news angle, storie di aziende magari proposte da una redazione che fa prima una selezione sul valore del contenuto, però poi dopo, quando mandano la troupe e montano il video e tutto quanto, si fanno anche abbastanza profondamente pagare. Adesso facciamo sentire un inserto. As you know, watchmakers, they need quiet place to think. And this is really the cradle of the watchmaker industry. So my name is Cécile May, and I'm taking care of Marvin. It's a little watch brand we own with my husband. Marvin belongs to this region, created in 1850 by Marc and Emmanuel Dittisheim, who are two brothers. And they choose Marvin because their biggest customer was American, and his name was Marvin. Bonjour, je m'appelle Sébastien Perret, je suis designer horloger. Typiquement, moi j'ai toujours un mon petit carnet de croquis avec moi, que ce soit en vacances, en déplacement. Ecco, io trovo affascinante sia il fatto che passino tranquillamente dall'inglese al francese, il che evidentemente rivela che si rivolgono a un pubblico estremamente colto, ma poi soprattutto, lasciatemi dire, questa musica dei Lallatono, questa band giapponese che fa queste cose con i glockenspiel che noi usiamo qualche volta anche qui a Conversational, la dice lunga su come cambiano le aspettative del pubblico. Cioè, da internet ti puoi aspettare qualcuno che gradisca una musica di sottofondo tutt'altro che coinvolgente, però minimalista per certi versi, ma che è estremamente cool, no? Nel branded entertainment a volte si vedono delle avanguardie, diciamo così, espressive, non indifferenti. Allora, cosa mi dici di Cool Hunting? Secondo te questa cosa farebbe inorridire in Italia, cioè l'idea di qualcuno che dice vabbè, questa è una bella storia, però poi me la paghi, tu che sei l'azienda di cui parliamo. Sì, diciamo che proprio perché si chiama branded entertainment, chi è, diciamo, l'editore per quanto azienda, ha la necessità di avere una comunicazione che sia in linea con quella che fa parte della sua faccia anche più mass market, per cui certo, è difficile. In Italia ce ne accorgiamo dalla comunicazione di prodotto, quanto anche quella pubblicitaria, quanto, non so, anche lo stesso packaging che troviamo all'interno di un supermercato, i linguaggi siano meno sofisticati, e questo penso che poi alla fine abbia una ripercussione anche sulla possibilità che progetti come questo abbiano una manifestazione simile anche qui da noi. Ecco, Stefano, io prima abbiamo cercato con Andrea di fare un po' una panorama dei modelli di business, no? Questo di Cool Hunting, ma ne abbiamo visti anche altri, ne abbiamo parlato anche in altre trasmissioni, festival per esempio musicali trasmessi da Arte Live Web TV sono pagati dagli sponsor dei festival, quindi alle spalle del content owner e non più vicino alla distribuzione, dove normalmente è l'area del finanziamento del sussidio. Da noi si comincia a vedere qualcosa, perché per esempio alcune grandi fondazioni culturali, no? La Fondazione Musica per Roma comincia a distribuire da sola sul web, scavalcando bellamente i meccanismi soliti. Cosa sta per succedere anche in Italia, oppure magari no? Queste sicuramente sono mosche bianche, purtroppo, al momento. Il trend, per certi versi pericoloso, che vedo è la volontà di produrre testimonial anche dal punto di vista del web, un po' quello che tu stavi dicendo, quando poi l'azienda si trova a pagare chi deve produrre quel contenuto in maniera autonoma per parlare poi di quel brand o dei prodotti di quel brand. Ecco, in rete nell'ultimo periodo si parla tanto appunto del ruolo degli influencer online, chi sono poi quegli utenti che davvero riescono ad elevarsi ad opinion leader e a determinare anche i comportamenti d'acquisto di altri utenti, perché riconosciuti come fonti autorevoli. In questo credo che sia necessario fare chiarezza, proprio per evitare delle forme di comunicazione social che in realtà non fanno altro che in qualche modo ripristinare le vecchie marchette che citavi te prima, no? Perché alla fine se è un testimonial esterno che è pagato dal brand per parlare di quel brand o di quel prodotto, avrà più o meno la stessa affidabilità che io posso dare al brand. Beh, però permettimi, è un po' diverso se è la redazione che seleziona a monte. La redazione, per esempio, di Cool Hunting seleziona a monte le belle storie, no? Ricordiamo, mm-hmm, per esempio, la storia di quella signora di cui abbiamo parlato l'altra volta, che faceva delle splendide confetture in un magnifico negozio di New York, eccetera, raccontava come raccoglieva la frutta. Questa era una bella storia, a prescindere dal fatto che poi fosse branded content. Diverso è quando un grande brand fissa lui i paletti e impone una storia e se la fa finanziare, cioè non c'è più un filtro redazionale, è corretto Davide? Sì, è corretto, e su questo devo dire che ci sono ci stiamo rendendo conto anche noi che sempre di più cresce la sensibilità da parte delle aziende di finanziare prodotti che abbiano anche un livello di qualità superiore, e questo capita con aziende magari che hanno un posizionamento di, diciamo comunque, di marketing che va in quella direzione. Noi abbiamo lavorato per esempio parecchio con la Illy Caffè, che fa da sempre dell'integrazione tra prodotto e contenuti, arte contemporanea, una miscela, diciamo, che fa parte della propria identità. In quei casi il racconto, lo storytelling acquisisce delle dinamiche molto più sofisticate, ma perché i riferimenti che poi vengono riconosciuti dai propri consumatori sono quelli. Quindi secondo me è sempre un tema di marketing alla base, che aiuta o meno la produzione di contenuti di qualità. Va bene, allora la musica di sottofondo ci annuncia che il nostro tempo sta per scadere. Io ringrazio intanto Andrea Materia, con cui abbiamo parlato prima, magari domani ci ascolterà, poi più avanti anche in podcasting. Ringrazio naturalmente Davide Bartolucci e Stefano Bizzella accanto a me, che avremo anche la settimana prossima. Stavo già per anticipare alcuni dei temi di cui parliamo la settimana prossima, anche con altri ospiti. Io ricordo a tutti che le puntate di Conversational possono essere ascoltate tutte in podcasting su iTunes oppure direttamente sul nostro blog www.conversational.it, dove si spera che nei commenti la conversazione su questi temi vada avanti. Per il momento ringrazio tutti per l'ascolto e vi do appuntamento alla settimana prossima.